2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 12 luglio 2014, benvenuti o bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, ogni settimana insieme cerchiamo di capire, soprattutto insieme ai nostri esperti, i nostri ospiti, cerchiamo di capire come la tecnologia ci cambia la vita, oppure cambia il lavoro, la realizzazione dei prodotti. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Vi ricordo che potete partecipare alla discussione anche sulla nostra pagina Facebook o anche via Twitter, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024. Questa settimana sia Gartner che IDC, che sono due grandi società di ricerca che si occupano prevalentemente non solo di tecnologia, hanno pubblicato alcune stime di vendita dei computer. Si dice spesso che ormai stiamo vivendo l'era post-PC e quindi ormai il mondo dei computer sia in declino. Beh, allora, secondo gli ultimi numeri che sono stati pubblicati sia da Gartner che IDC, la perdita di quota di mercato dei computer rispetto a tutti i device, a tutti i terminali che noi abbiamo, è in frenata. Allora, Gartner è più ottimista, IDC un po' meno, anche se la ricerca che esegue IDC è fatta non tenendo conto di una fascia di computer portatili molto costosi che appunto invece vengono messi nel bilancio anche da Gartner. Comunque, allora, dopo due anni di vendite in calo, il mercato dei PC si è stabilizzato con una crescita dello 0,1% nel secondo trimestre dell'anno, questo secondo Gartner, mentre secondo IDC ci sarebbe stato invece un calo dell'1,7%, ma molto inferiore rispetto al -7% previsto pochi mesi fa, quindi sono segnali positivi. Allora, c'è chi dice che tutto ciò sta accadendo per un effetto sostituzione di vecchi computer che hanno ancora Windows XP con Windows 8 o Windows 7, comunque con le nuove versioni di Windows, dopo che il supporto a Windows XP è stato abbandonato. In generale, quanti computer vengono venduti nel trimestre, compresi i computer portatili? Allora, parliamo di 76 milioni circa, secondo Gartner, siamo a 75,8, poco di meno secondo IDC, che come vi dicevo non tiene conto di una fascia molto alta di computer portatili. A proposito di produttori, Lenovo, la cinese Lenovo, è il principale produttore al mondo con una quota del 19,2%, HP segue al 17,7%, posizioni ribaltate invece in Europa, dove HP guida la classifica con una quota del 20,5%, seguita da Lenovo al 17,7%. HP è molto forte negli Stati Uniti, sempre negli Stati Uniti Apple ha una quota del 10% nel mercato dei computer, cosa che invece non ha nel resto del mondo, non appare nella classifica dei primi 5 produttori. Allora, tra i primi 5, se li guardiamo a livello globale, oltre a Lenovo e HP, gli altri grandi produttori di computer sono Dell, che è al terzo posto, 13,3%, Acer, che ha grosso modo poco meno dell'8%, e Asus, poco meno del 7%. Tutto il resto del mercato, e stiamo parlando di un bel 35% del mercato dei PC, è molto frammentato, prevalentemente su Windows, quindi il sistema operativo è quello, ma se guardiamo i produttori, un po' come sta succedendo per Android, i produttori che si basano su quel sistema operativo sono molti, anche di marchi sconosciuti. Comunque nel mondo dei computer, questo lo commentiamo da molto tempo ed è ancora così, più di un terzo del mercato, 35%, è composto da produttori non tra i grandi della classifica o delle classifiche che vengono realizzate mese dopo mese. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo con una notizia che interesserà sicuramente molti turisti, ma anche chi viaggia per lavoro. Se siete in partenza per gli Stati Uniti, ricordate le recenti disposizioni delle autorità americane, ne abbiamo parlato anche all'interno di GR24 questa settimana. Chi ha uno smartphone, un tablet o anche un computer portatile dovrà poterlo accendere su richiesta delle autorità per controllarne i contenuti ed escludere che o il guscio o addirittura la batteria sia di fatto una bomba pronta ad esplodere una volta in quota. Quindi questi terminali devono essere carichi. Può essere utile ricordare che per mantenere carico il proprio smartphone o tablet in viaggio sono molto utili e si stanno diffondendo, anche se non tutti le conoscono, le batterie portatili. Sono scese di prezzo, ce ne sono di varie capacità, si parte da alcune decine di euro, queste che vengono definite anche battery pack, quindi piccole batterie che si attaccano allo smartphone o al tablet e lo caricano, quindi che sostituiscono di fatto il caricatore in mancanza di corrente elettrica. Digital News. Avast, che è una società piuttosto nota che produce antivirus e sistemi di sicurezza, ha fatto un test verificando che i dispositivi Android non cancellano tutti i dati presenti su uno smartphone quando si esegue il ripristino delle condizioni di fabbrica. Magari uno lo vuole vendere, fa questa operazione per cancellare tutti i dati, invece i tecnici di Avast avrebbero recuperato fotografie e anche alcuni dati sensibili che erano ancora disponibili sui dispositivi. Il sistema di ripristino di Apple, secondo i tecnici di Avast, quindi di iOS, è nettamente più sicuro, ma va ricordata in generale l'importanza di cancellare in modo definitivo tutti i dati dei terminali o anche di un hard disk prima di vendere o dismettere un prodotto, operazione che tra l'altro è obbligatoria secondo la normativa privacy. Quindi quando un'azienda dismette i propri computer deve obbligatoriamente fare una cancellazione sicura dei dati. Ce ne siamo occupati lo scorso anno 2024, andate nel nostro archivio, cercate con la parola chiave cancellazione o cancellazione sicura dei dati e potete riascoltare quella interessante puntata. Digital News. Un'ultima notizia riguarda Google, che ha aperto un sito internet, lo metteremo nella nostra pagina Facebook, per raccogliere opinioni su come deve essere implementata la sentenza della Corte Europea sul famoso diritto all'oblio. In alcuni casi, dicono i giudici, una persona può avere diritto a vedere cancellato un link ad una notizia. Google avrebbe ricevuto finora più di 70.000 richieste, ma viste le sfumature, immagini che i giudici hanno lasciato, rimane aperta la domanda sull'equilibrio che ci deve essere fra il diritto di una persona ad essere dimenticata dalla rete, o meglio, dimenticata dal motore di ricerca, perché poi le informazioni online devono rimanere, ma deve essere più difficile trovarle, questo equilibrio, e il diritto del pubblico a conoscere quell'informazione, perché in alcuni casi quell'informazione è importante. Tutte queste valutazioni devono essere fatte dal motore di ricerca che riceve la richiesta della persona che vuole vista cancellato ad esempio un link, ma l'equilibrio è sempre molto molto difficile. Dunque, adesso ci occupiamo di tecnologia e di vino. Questa è una delle industrie più importanti per la nostra economia, anche per l'immagine dell'Italia nel mondo. Come la tecnologia può aiutare la produzione del vino? Beh, negli ultimi anni abbiamo visto tantissime esperienze di vario genere, ma noi stiamo parlando di una tecnologia che si può anche collegare alla rete internet, e quindi potremmo dire che in qualche modo parleremo nei prossimi minuti di Internet of Things, la internet delle cose che collega il mondo della rete virtuale con il mondo reale. Raccogliendo dati, questi dati possono essere elaborati, possono essere analizzati per ricavare nuove informazioni e anche per gestire meglio i processi produttivi. È il caso di una tecnologia di cui parliamo nei prossimi minuti, una tecnologia che ha vinto già due volte, già è stata finalista al premio Innovazione ICT a SMAU. SMAU, sapete che oltre all'appuntamento principale più importante di Milano, va in giro per l'Italia. Questa settimana c'è stato l'appuntamento di SMAU a Firenze per la prima volta. Anche in questa occasione la ditta Winer e assieme ad una casa vitivinicola Ormanni, in questo caso, è stata finalista del premio Innovazione ICT. Parliamo di una tecnologia che serve per migliorare la produzione del vino e in modo particolare il processo di vinificazione. Ne abbiamo parlato con Stefano Francia, che è amministratore delegato di Winer. Il sistema che noi abbiamo realizzato tiene sotto controllo soprattutto la fase della vinificazione, il processo delicato in cui l'uva diventa vino. È un processo che dura alcuni giorni e in cui controllando in maniera precisa tutti i parametri che intervengono, in particolare la temperatura, le quantità di rimontaggio, il modo in cui avviene questo processo, si va a influenzare in maniera determinante la qualità del vino finale che andiamo a produrre. Oggi questi controlli, questa procedura viene attuata sulla base dell'esperienza dell'enologo, all'intuito e all'esperienza, sulla base dell'uva che gli arriva in cantina, decide qual è il modo migliore per vinificarla, per esprimere il meglio il vino migliore che è possibile tirare fuori dall'uva che gli arriva in cantina, uva bianca come uva rossa. Il nostro sistema permette di controllare in maniera più precisa questa fase. In particolare l'enologo può impostare tutti i parametri del modello su un tablet in maniera molto semplice, decidendo come, man mano che la fermentazione va avanti, devono essere cambiati i parametri. Questo controllo più preciso si sta dimostrando delle grandi potenzialità, perché permette di tipicizzare in maniera molto forte l'uva, il vino finale che andiamo a produrre. Nel futuro questo tipo di controlli andranno diffondendosi inevitabilmente, perché permettono di avere una qualità più elevata del vino. È una fase che dura alcuni giorni ed è determinante. Tante volte può capitare in una cantina, durante i momenti concitati della vendemmia, che alcune vasche, alcuni particolari del processo vengono trascurati, perché le attività sono tante: arrivano i trattori con l'uva, bisogna caricarla dentro la botte, ci sono le botti da vuotare man mano che il vino viene pronto, il personale è molto impegnato all'interno di tante attività e a volte non ha la necessaria attenzione a ogni singola vasca. Questo può produrre delle piccole dimentiche, delle piccole anomalie durante il processo, che poi alla fine fanno sì che il vino non esprima il 100% di quello che avrebbe potuto esprimere in base all'uva che avevamo. Che tipo di sensori ci sono in questo sistema? Noi abbiamo sviluppato un sensore che abbiamo brevettato a livello internazionale, che permette di leggere in maniera precisa la densità del mosto in fermentazione. Questo è un parametro tecnico fondamentale per chi opera nel settore conosce molto bene, che ad oggi veniva misurato solo manualmente. Noi permettiamo di misurarlo in maniera continua e in maniera automatica. Quindi gli altri sensori immagino che siano molto più tradizionali, cioè quello di temperatura è un termometro. Quello di temperatura è un semplicissimo termometro. E tutti questi, quanti sono i sensori? Ma direi le grandezze fondamentali sono sicuramente la temperatura e la densità. Queste sono le grandezze fondamentali. Sensori sono collegati a internet, immagino. Il nostro sistema di controllo può essere collegato naturalmente a internet, permettendo anche di essere controllato in remoto. Quindi anche se l'enologo non è presente, per esempio, in cantina in quel preciso momento, può ricevere delle notifiche da parte del sistema che c'è qualche anomalia, c'è una vasca che richiede magari particolare attenzione perché la fermentazione non sta andando nel modo che lui desidererebbe, e l'enologo può decidere di intervenire anche a distanza sui parametri di vinificazione per riportare il sistema in controllo. E questo invece è il parere dell'enologo, quindi di chi deve utilizzare questa tecnologia. Roberto Ciani è l'enologo della Tenuta Ormanni, siamo in Toscana, una delle poche aziende che già utilizzano questo sistema. Il vero vantaggio è che abbiamo la certezza che venga effettuato quello che noi abbiamo programmato per quel preciso tipo di uva. Al momento dell'arrivo delle uve noi lo valutiamo come qualità e come prospettive future di quell'uva, e abbiamo ben in mente come deve essere vinificato, la temperatura che deve variare ora per ora in certi termini, la densità che deve variare a una certa velocità, lo stesso controllato nelle 24 ore. La somministrazione dell'ossigeno, estremamente importante per i lieviti, che varia tantissimo da un minuto all'altro, con questo sistema noi lo possiamo far fare in automatico nelle 24 ore. In altre condizioni, nella migliore delle ipotesi, era un'aggiustatura che veniva fatta una volta al giorno, due massimo, quando proprio c'era una gran disponibilità di personale per seguire serbatoio per serbatoio. La nostra azienda non è enorme, però sono ben 70 ettari che richiedono 30 serbatoi di vinificazione attivi durante i 20 giorni delle vendemmie. E questo, moltiplicato per gli interventi che vengono fatti, può dare un'idea di quello che richiede al personale. Con questo sistema noi sappiamo quello che vogliamo per il nostro vino e poi sappiamo quello che verrà fatto. I lieviti vengono seguiti bene, che c'è quasi una ci vuole un'empatia tra l'enologo e il lievito, che è quello che poi fa il vino, lo trasforma, non solo lo zucchero ma da tutte le componenti che poi si riescono a sentire e a degustare nei vini finiti. Ha bisogno di determinate attenzioni, dà dei feedback importanti che l'enologo deve interpretare con il gusto, l'olfatto e con le variazioni, gli andamenti fermentativi, la variazione della densità nel tempo, e oltre a questo noi possiamo aiutare i lieviti in questo ottimizzando le condizioni di fermentazione, e è questo che ci dà la possibilità di avere vini puliti con degli aromi netti, senza difetti né nascosti né evidenti. Vino pulito a fine fermentazione. Ti faccio una domanda sul rapporto che c'è tra questa tecnologia che si collega in internet e quindi che prevede la possibilità che tu possa controllare, tenere d'occhio questi parametri anche in remoto, e la necessità della presenza in luogo tua, comunque del tecnico in cantina. Quanto sarà possibile, a tuo parere, che la virtualizzazione di questo aspetto venga enfatizzata nei prossimi anni? Quindi immagino che un bravo enologo possa occuparsi di più cantine grazie a queste tecnologie. Certo, la presenza è indispensabile, perché il metro che utilizza l'enologo è il proprio naso e la propria bocca, quindi deve passare tutto da là per percepire quello che il lievito riesce a trasmettere. Con questi odori che si manifestano, cambiano, spariscono e si rivelano nel giro di minuti qualche volta, quindi la frequenza ci deve essere. L'enologo interno in aziende grandi è indispensabile, ma anche dormire tranquilli è indispensabile. A distanza noi possiamo ricevere un allarme del sistema che non riesce a controllare magari per determinati motivi un arresto dell'impianto, un problema sul frigorifero, un problema sulle caldaie. Se non riesce a controllare come lui sa che deve, avvisa. E quindi anche la visita, che in qualche azienda può essere anche settimanale, in altre giornaliera, diventa a questo punto importante, ma si dorme tranquilli nel frattempo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, abbiamo parlato di vino, ci sono alcune considerazioni che si possono fare sul futuro di questa tecnologia, dell'uso che si può fare di questa tecnologia, ne riparliamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Abbiamo parlato di una tecnologia che viene utilizzata ancora molto poco in poche cantine in Italia per la vinificazione, un sistema che tiene sotto controllo e può essere anche controllato a distanza, può avvisare l'enologo a distanza, tiene sotto controllo alcune fasi, le fasi fondamentali per la produzione del vino. È una tecnologia interessante anche perché, abbiamo detto, in questo caso e anche in questo caso si raccolgono dati. Pensate se tutte le cantine fossero dotate di sistemi di questo tipo, quanti dati possono essere raccolti e quante analisi possono essere fatte, elaborate sulla produzione del vino in Italia o in tutto il mondo addirittura. Ma possiamo spingerci ancora oltre, visto che qui stiamo parlando di una tecnologia che permette, data una materia prima, cioè il mosto che entra in cantina dopo la spremitura dell'uva, posso variare i parametri come la temperatura o l'ossigeno per far lavorare i lieviti, quindi cose naturali, per ottenere una materia finale, quindi il vino di un certo tipo, come lo vuole l'enologo in questo caso. Ma se la tecnologia migliora ed evolve sempre di più, beh, potremmo arrivare ad alcuni parametri che gli stessi computer possono decidere per raggiungere la perfezione della materia. Poi alcuni potrebbero dire: no, ma la mano dell'enologo ci deve sempre essere. Ma certamente ci sarà, però potremmo anche raggiungere un mercato dove ci sono delle curve di modifica di questi parametri che vengono commercializzate, che possono essere acquistate magari da un bravo enologo. Insomma, tutti scenari che sicuramente accadranno nei prossimi anni. Molto lentamente, perché l'industria del vino, come altre industrie, è molto molto lenta e molto difficilmente comprende le evoluzioni tecnologiche, molto tradizionalista, come per certi versi è giusto che sia, ma forse in alcuni casi un passo in avanti è auspicabile e auspicato da molti in questo mondo che cambia molto velocemente. Potrebbe anche essere un modo per vendere un tipo di vino tecnologicamente migliore rispetto ad un altro, cioè la tecnologia potrebbe diventare anche un elemento di marketing. Dunque, adesso cambiamo argomento, parliamo di Agenda Digitale Italiana, un argomento piuttosto vasto e complesso. Questa settimana sono state fatte alcune nomine, diciamo che serve ancora il passaggio in Gazzetta Ufficiale. Comunque, la struttura che fa riferimento alla Presidenza del Consiglio, che dovrebbe spingere e accelerare verso l'Agenda Digitale Italiana, è stata in parte definita, perché mancano alcuni nomi. Il prossimo direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, lo si attendeva da molto, sarà Alessandra Poggiani. Paolo Barberis, fondatore di Dada, esperto di tecnologia, oggi si occupa molto di start-up, sarà consigliere della Presidenza del Consiglio per l'Innovazione, e Stefano Quintarelli sarà il presidente del Comitato di Indirizzo dell'Agenda Digitale, che quindi deve fare le strategie che poi devono essere messe in pratica dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'Agenda Digitale Italiana. Stefano Quintarelli ci ha spiegato quali sono i margini, qual è il perimetro all'interno del quale dovranno lavorare tutte le persone che sono state nominate, quelle che verranno nominate nelle prossime settimane. Dal punto di vista operativo, diciamo che esiste una nutrita serie di obblighi di legge che l'agenzia deve fare, ed esistono già una serie di cantieri aperti, dal consolidamento dei data center, che era la cosa più cara al predecessore di Alessandra Poggiani, Agostino Ragosa, all'anagrafe nazionale, al sistema pubblico di identificazione, al CERT, Computer Emergency Response Team, cioè per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza. Ce ne sono N di questi che sono già stabiliti dalla legge. Concretamente, prima di tutto, quando secondo te sarà possibile cominciare a diventare operativi? Quindi passeranno settimane o mesi? E soprattutto, che tipo di competenze ha concretamente questa struttura? Potrà fare veramente le cose, o dovrà dire che cosa fare ai vari ministeri, quindi con una complicazione in più? Diciamo, le nomine verranno rese operative con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che deve seguire l'emanazione del decreto di nomina, che non sarà una cosa immediata, ci vorrà qualche settimana per i tempi burocratici. Per quanto riguarda le prime cose da fare, io posso parlare naturalmente per me, le cose concrete, e saranno innanzitutto fare un censimento e capire qual è lo stato d'arte, anche sia in Italia, nelle regioni, sui territori, sia in Europa, capire, perché è inutile insomma andare a ripetere errori che magari altri hanno già fatto, e quindi a cercare di mutuare qualche buona pratica. L'ultima parte della domanda che mi ponevi riguardava il livello di applicazione diretta. Ecco, spesso noi abbiamo, io sono un uomo d'azienda, abbiamo a modello le aziende, la pubblica amministrazione non è un'azienda, e tantomeno quando si ha a che fare con tanti ministeri. Quindi dicevo prima che bisogna cercare di conciliare le varie istanze, e l'agenzia non ha un potere, cioè non è il direttore IT dell'Italia che dice si fa così, deve tracciare delle linee guida e deve cercare di condurre le altre la pubblica amministrazione, le altre parti dello Stato a seguire dei modelli che sono quelli che l'agenzia propone. Beh, le ultime parole di Stefano Quintarelli erano che l'agenzia propone, quindi come avete capito la realizzazione di questi obiettivi non sarà semplice. La buona notizia è che almeno fra poche settimane l'agenzia sarà operativa dopo aver atteso per mesi l'approvazione dello statuto che ha di fatto bloccato il lavoro della AGID, Agenzia per l'Italia Digitale. Allora, servono altre nomine, quindi il quadro delle nomine sarà completato. Devo dire che tutto il dossier dell'agenda digitale è seguito forse da un po' troppe persone, perché oltre a quelle che fanno parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del comitato di indirizzo, del consigliere a Palazzo Chigi, c'è il ministero guidato dal ministro Madia che si occupa dell'agenda digitale all'interno della pubblica amministrazione, c'è una persona che consiglia questo ministro e poi ci sono tutti gli altri ministeri. Insomma, è un quadro piuttosto complesso. Comunque vedremo quello che succederà nei prossimi mesi. Avete anche sentito la qualità della comunicazione della telefonata. Purtroppo è esperienza comune non riuscire a telefonare in mobilità e purtroppo sulla voce la qualità è peggiorata negli ultimi tempi. Che ne dicano gli operatori di telefonia mobile? Io parlo con un sacco di tecnici, di manutentori, di persone che si occupano dell'argomento e molti mi dicono con la crisi si cerca di risparmiare e quindi tutti gli operatori cercano di ridurre gli investimenti in questo particolare settore, cioè sulla voce, un po' perché gli investimenti si fanno su altre parti, cioè sulla parte dati, che è quella che cresce e fornisce la maggior parte dei ricavi, un po' perché appunto c'è la crisi in generale, quindi si cerca di risparmiare magari sulla manutenzione degli apparati, sul ritmo, sulla frequenza di manutenzione. Poi gli operatori diranno che tutto ciò non è vero, ma invece noi abbiamo molti segnali in questa direzione. Allora, in generale, poi non tutta la colpa è degli operatori, perché gli operatori vivono in un mercato molto competitivo, devono soddisfare molte richieste. Infatti la richiesta di velocità da parte degli utenti e quindi la necessità di attivare nuove e più potenti reti è, potremmo dire, più veloce della capacità di spesa degli operatori, cioè c'è una forte richiesta da parte dei consumatori, vogliamo reti sempre più veloci, sempre più performanti. Ma gli operatori mica possono fare l'upgrade delle reti ogni anno. Stessa cosa vale per la rete fissa. Questo è uno dei temi, dei grandi temi di scontro fra gli operatori di telecomunicazioni e gli operatori internet, perché gli operatori internet lanciano sempre nuove applicazioni. Pensate all'evoluzione del video negli ultimi tempi. Lo fanno in maniera molto veloce, anche in maniera molto affascinante, quindi i consumatori vogliono utilizzare questi servizi, che spesso sono anche gratuiti, ma per utilizzare questi servizi servono reti sempre più veloci e gli operatori di telecomunicazioni giustamente dicono: ma come? Noi non ci siamo nemmeno pagati la rete che abbiamo fatto 3 anni fa e già dobbiamo fare una nuova rete. Già oggi abbiamo il 3G diffuso, dobbiamo fare il 4G e si parla già del 5G. Insomma, è un gioco sicuramente molto, molto complesso, molto difficile. E gli operatori di telecomunicazioni non sono in una posizione molto favorevole. Certo, mica gliel'ha ordinato il dottore di fare quel mestiere, quindi poi di conseguenza devono operare. Comunque, giusto per avere un'idea, a proposito delle reti di telecomunicazioni, su un totale di abbonati alla telefonia mobile che nel mondo è arrivato oggi a 6,8 miliardi, quindi stiamo per superare la popolazione, più SIM attive di popolazione, però le SIM dati attive per internet in mobilità sono cresciute del 35% nell'ultimo anno e hanno raggiunto i 2,3 miliardi nel primo trimestre del 2014. Sono questi alcuni dati del Mobility Report di Ericsson, che ad intervalli regolari fa questo report molto bello, approfondito, interessante, con un sacco di numeri e un sacco di prospettive per i prossimi anni. E a proposito di stime per i prossimi 5 anni, l'80% dei nuovi abbonamenti nel 2019 saranno per il broadband in mobilità. Tutto ciò è spinto dall'uso degli smartphone, sempre più venduti, non si vede un rallentamento della vendita degli smartphone in tutto il mondo, e anche dall'esplosione dei servizi M2M, cioè machine to machine, a proposito di Internet of Things, della Internet delle reti, cioè saranno sempre di più le macchine collegate alla rete, e in modo particolare alla rete di telefonia mobile. Secondo Ericsson, queste macchine, quindi il machine to machine, crescerà di 3 o 4 volte da qui al 2019, e queste macchine producono dati. I dati vanno poi trasmessi attraverso le reti e poi elaborati. Il traffico dati mondiale crescerà da qui al 2019 di 10 volte. Il 50% di questo traffico sarà generato dal video. Oggi siamo al 40%. Allora, tutto questo per dire che anche su rete mobile l'esplosione del traffico dati, che è già in corso da parecchio tempo, continuerà. Quindi non vediamo, meno Ericsson, ma molti altri indicatori e molti altri centri di ricerca non vedono alcun tipo di rallentamento. Quindi continuerà ancora per molti anni, e anche questo è un ulteriore motivo per avere una rete pervasiva in fibra ottica. Quante volte abbiamo detto che la fibra ottica non serve e non servirà solo per la rete fissa, ma servirà anche per alimentare in modo adeguato la rete di telefonia mobile, perché già col 4G, ma sempre più col 5G, le antenne avranno una capacità, una dimensione di cella, quindi copriranno un territorio molto più limitato rispetto ad oggi. Avranno poi, sulle potenze si dovrà decidere anche se anche in base alla legge, se cambierà la legge, ma di fatto copriranno un'area molto più piccola e serviranno un numero di persone più limitato, ma ci vorranno molte più antenne, quindi molti più punti di alimentazione tramite questa rete in fibra ottica. Allora, poi c'è un altro motivo per cui soprattutto Ericsson, i produttori di tecnologia, parlano di questi numeri. Dicono fondamentalmente agli operatori: dovete investire in nuove reti, perché i numeri e l'esplosione dei dati sarà così elevata nei prossimi anni che è necessario fare investimenti. Ma qui poi torniamo ai discorsi che abbiamo fatto prima. Allora, di tutto ciò abbiamo parlato recentemente con Nunzio Mirtillo, che è il numero uno di Ericsson in Italia. È chiaro che questo utilizzo del cloud e delle reti ha un effetto immediato sul traffico dati, che cresce in maniera esponenziale in accordo alle proiezioni. Ad esempio, nei prossimi 5 anni il traffico dati aumenterà di 10 volte, l'anno prossimo avremo più SIM che persone. Il numero di dispositivi connessi aumenta di giorno in giorno. Pensa allo smart metering, ai contatori dell'acqua oppure del gas. 40 anni fa erano meccanici, cioè passava l'acqua, girava il contatore. 20 anni fa li hanno digitalizzati, però essenzialmente lo stesso modello, andavi lì e leggevi. Oggi non c'è più bisogno di andare a leggere cosa succede, perché il contatore è connesso, per cui hai i dati direttamente dal cloud. È chiaro che questa trasformazione porta tantissime opportunità. È ovvio che, ad esempio, in Italia bisogna cogliere queste opportunità, perché se si sta fermi, di fatti si va indietro rispetto ad altri paesi. Le tecnologie non sono più una barriera, ma il paese, il governo, deve ovviamente aiutare le aziende a supportare questa trasformazione. Faccio un esempio. Questa digitalizzazione richiederà milioni di nuovi lavoratori che abbiano gli skill e le competenze corrette, per cui è chiaro che ci sarebbe bisogno di un orientamento a scuola, fin dalla scuola media o superiore, per indirizzare i ragazzi verso questa terza economia, in modo tale che noi come sistema paese non ci troviamo in una situazione di scarsità di competenze. Allo stesso tempo, le competenze che oggi abbiamo con i nostri lavoratori vanno trasformate, per cui è un problema industriale, è un problema sociale. Il governo e le istituzioni ovviamente devono aiutarci, devono aiutare le aziende ad attraversare questa fase di cambiamento. A proposito di cambiamento, voi ad intervalli regolari pubblicate molti rapporti che ci raccontano di questo cambiamento. Prima lei diceva che ci saranno nel mondo, perché in Italia questo livello l'abbiamo già raggiunto, più SIM rispetto alla popolazione, che è un dato sicuramente molto, molto indicativo. Che cos'altro, sempre tradotto poi in numeri che ci raccontano questo cambiamento, che cosa sta accadendo e che cosa accadrà nei prossimi anni? Sì, parlando in Italia ad esempio, da alcuni dati sull'Italia, abbiamo fatto una survey fatta con la Ericsson, abbiamo intervistato un campione significativo che rappresenta 25 milioni di italiani. tra febbraio e marzo di quest'anno. I trend sono abbastanza chiari. Un esempio, l'anno scorso c'era un tablet in una famiglia su tre, quest'anno avremo un tablet una famiglia su due, quindi una crescita a due cifre. Il numero di smartphone in Italia è già superiore al numero di telefoni cellulari normali. Il traffico dati anche in Italia aumenterà nei prossimi 4 anni di 7 volte, ma la cosa più interessante che si nota, abbiamo preso un campione che va di popolazione, età fra i 20 e i 65 anni, è che è vero che il traffico essenzialmente cresce per l'applicazione video, ma in realtà tutti gli utenti possessori di smartphone o di tablet utilizzano di più tutte le applicazioni. Cioè ognuno di noi come consumer utilizza di più tutte le applicazioni disponibili, applicazioni di social networking, di accesso al web, di utilizzo della mail, oppure anche di download del video. Un altro trend che è molto interessante è che fino a ieri il video su smartphone o su tablet era essenzialmente videoclip o short video. Già oggi il 50% dei possessori di dispositivi digitali tipo smartphone o tablet vede un film completo su questo tipo di terminali oppure di devices una volta a settimana, e questo è un cambiamento proprio del costume di come fruire il video. Quindi il video diventa più personale, diventa indipendente dal posto in cui sei, e quindi c'è questa personalizzazione sempre più spinta. La terza economia è un'economia che è user centric, cioè le aziende che hanno successo sono le aziende che mettono il cliente al centro del proprio business model. 40 anni fa invece era più il contrario, cioè era più business centric, le aziende creavano la domanda e i consumer erano in qualche modo costretti, no, a sottoscriverla. Nella seconda economia era più technological centric, cioè era tutto basato sul fatto che esisteva una tecnologia e si installava questa tecnologia. Oggi è user centric. Se ci pensa, tutte le aziende che stanno avendo un grossissimo successo con le applicazioni hanno sempre l'utente al centro. Prima di chiudere questa puntata di 2024, una considerazione su quello che c'è stato questa settimana a Venezia. Pochi secondi, perché più di pochi secondi non li merita. C'è stato Digital Venice, questo appuntamento che ha visto arrivare anche il governo, il presidente del consiglio Neelie Kroes, che è il commissario europeo all'agenda digitale, commissario però in scadenza perché in autunno la commissione verrà rinnovata. Beh, una serie di buone intenzioni che sostanzialmente vanno sotto il cappello. Investire in digitale porta sviluppo, porta innovazione, aumenta la competitività, aumenta i posti di lavoro, eccetera eccetera. Sono 10 anni che lo diciamo, 2024, e lo dicono tutte le istituzioni che in qualche modo studiano l'impatto che l'innovazione e la tecnologia ha su un paese, sulla società, e lo dicono tutti gli esperti. Quindi nessun annuncio concreto, tante buone intenzioni, però diciamo si può partire dalle buone intenzioni, poi vedremo se dalle buone intenzioni si passa anche alla pratica. E poi dico anche che c'è stata una sorta di conferma. Allora, la settimana scorsa alcuni di voi ricorderanno che abbiamo detto che al governo si sta valutando, si sta studiando la possibilità di creare una società per la rete, una società pubblica che gestisca, che costruisca e che gestisca un network in fibra ottica che arrivi nelle case di tutti gli italiani. Un progetto di cui abbiamo parlato, assolutamente sostenibile economicamente e sarebbe anche molto ben visto da una parte del mercato, perché ci toglierebbe da un chiamiamolo impasse che conosciamo molto bene, che è il fatto che la rete è di proprietà di un operatore privato di Telecom Italia. Avere una rete pubblica farebbe sì che anche le telecomunicazioni diventassero come gli altri mercati: la rete del gas, la rete dell'acqua, la rete dell'energia elettrica, le strade, le ferrovie, eccetera eccetera, sono di proprietà pubblica, tutti possono accedere a parità di condizioni. Abbiamo visto che invece, non essendo così, l'Agicom ad intervalli regolari deve intervenire per far rispettare una serie di regole. Poi a volte ci sono multe, a volte ci sono ricorsi, eccetera. Insomma, la storia la conosciamo, è piuttosto complicata. Sicuramente avere una rete pubblica favorirebbe uno sviluppo più cristallino del mercato. Allora, questa settimana il Fatto Quotidiano ha pubblicato anche un progetto, un documento che conferma il fatto che al governo si sta pensando, ma poi anche in questo caso gli stakeholders, che dovrebbero essere i cittadini ma purtroppo non sono sempre corrispondenti ai cittadini, sono tanti e il dibattito chissà che tipo di piega prenderà. Ma noi siamo particolarmente favorevoli a un progetto di questo genere, ne abbiamo parlato e magari ne riparleremo presto. Scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. 2024.